Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Puttana, prostituta, dato che la Lega vuole legalizzare la prostituzione. Forse da ragazzo. Beh, non c'ho più l'età, ragazzi, non c'ho più l'età. No, ma una volta sei andato. Però, sì, però anche nel paese della signora Chienge, diciamo che abbiamo assaggiato il prodotto locale, che era tutt'altro no, che cattivo. Ma dire così, ma era tutt'altro, no, che prodotto con tanto era? Rispetto, perché proprio nella regione di cui è originaria la signora Chienge, ci sono le più belle donne congolesi. Beh, sono notoriamente le katanghesi. Notoriamente le katanghesi sono alte e belle, slanciate, sono signorini come portamento. Ma quante te ne sei fatte là? Sono quante le più belle donne dell'Africa, dicono tutti quante gli esperti. Quante te ne sei fatte lì? Ma che non mi ricordo neanche più. Comunque l'esperienza più è stata ottima. L'esperienza è stata ottima. E prodotto devo dire, devo dire che invece la signora Chienge non appartiene a questa specie, diciamo, più bella. Non è, non è né alta né slanciata né signorina né veramente bella. Non si può dire così. Ma diciamo di che punto, proprio nella zona della signora di cui è originaria la signora Chienge, ci sono però le più belle donne del Congo, però perché pagavi, sono le katanghesi. Però pagavi, diciamo la verità, all'epoca pagavi, dai. Ma è ovvio, ma è ovvio. Beh, appunto, dunque ma ovvio. È ovvio. Ero un estraneo, arrivo lì a sera, uno non sa che cazzo fa. Cioè, ma com'erano queste katanghesi? Avevo anche 25 anni. Com'erano queste katanghesi a 25? Molto belle. Molto belle, Lo saranno anche tuttora. Ma che faceva in Congo, manco, Borghezio? Il mio primo lavoro è stato in Congo, che non lo sai, inviato dalla Camera di Commercio Italo Zairese. Io l'ho per il governo, ma erano molto belle. Del grande Mobutu, un uomo, ma che uomo eccezionale, ma che grande Mobutu, un uomo eccezionale, un capo che aveva dato identità, ordine, pulizia a questo grande paese. Ma è un criminale, un popolo che ha trovato un capo, un leader. Però ridevi anche tu, David, ridevi anche tu. Ma ridevo, ma era un riso nervoso, signor Cruciani, era un riso nervoso, isterico. Senti, non voglio cominciare male questa sera, perché non sono nervoso, sono molto tranquillo, sono molto felice, sono molto rilassato, ma non si sente una mazza. Non si sente niente. Non si sente una mazza, per cui rimettiamo a posto, risettiamo tutto. Non mi voglio incazzare, sono tranquillo, guarda, sono sereno, tranquillo, pacifico, ma non si sente una mazza, scusami, ma non si sente una mazza. A proposito di Borghezio, che ha detto, come avete sentito, che ha provato, ma non ha detto niente di eccezionale, ha detto che è andato a prostitute quando era in Congo, diciamo la verità, e ha detto che ha trovato delle donne più belle della Chienge. Adesso, voglio dire, qualcuno dice insulta la Chienge, insulta. Ha detto, ha fatto una differenza, quelle con cui sono andato sono più belle della signora Chienge, punto. Ma non mi pare una cosa così strana. Io vi porterò a Parigi. Seguitemi su Parigi. A proposito di Borghezio, è nata una nuova coppia, pare, Razzi Borghezio, la coppia perfetta secondo loro. Un'alleanza inedita tra di voi? Tranquillamente sicuro, coppia perfetta. I nostri immigrati hanno dovuto superare delle prove difficili e si sono fatti strada tirandosi sulle maniche. Un esponente del partito di Farage, si chiama Godfrey Bloom, a proposito di Bongo Bongo, perché poi i punti di contatto ci sono, e così chiama i capi africani che ricevono soldi dall'Europa, e poi li sprecano. Se non avesse messo, la dico forte qui, se non avesse messo la parola bongo bongo, in realtà il ragionamento non è così assurdo, lo mandiamo in inglese, tanto più o meno si capisce. Well, that's, that's a pretty big bone of contention. I mean, the thing about Bongo Bongo Land is it refers to sub-Saharan Africa, doesn't it? If you say it does. Why did the phrase come to mind? I was describing despots, corrupt despots across the globe who have no audit facilities at all, who either spend the money that we give them on arms or they misdirect it. That's the point I was making. And that's all summed up by Bongo Bongo, is it? Yes, if you will, if you will. Siamo qui, la Zanzara. Parenzo, ci sei? Ci sono. Oh, bene, bene, bene. Ci sono e ancora adesso bongo bongo. E dipende quello che dici, no? Cioè bongo bongo è offensivo. Poi ha ragione nel merito. Nel merito ha ragione questo deputato di Farage. Oh, a proposito di bongo bongo eccetera, così la Boschi si giustifica, se vogliamo, tra virgolette, per la questione delle fotografie fatte anche dentro l'aereo mentre portava i bambini congolesi alle famiglie italiane, bambini adottati. Boschi: soli che ci fate qui. Perché è andata lei a prendere questi bambini e non, diciamo, la titolare della Farnesina, la ministra Mogherini? Beh, intanto perché dopo mesi di lavoro della Farnesina, della Commissione per le adozioni internazionali, poi la situazione è stata sbloccata grazie a un intervento diretto del Presidente del Consiglio. Quindi Renzi e quindi ha deciso poi di mandare ha lei. Delegato me. Una cosa, attribuisce il merito al Presidente del Consiglio, cioè Renzi avrebbe sbloccato lui. Dice la Boschi, dice avrebbe sbloccato lui e poi ha mandato me. Io ripeto, anzi facciamo parlare il signor Freccero di questo. Signor Freccero, ieri sera a Tango, caro Parenzo, meglio che faccia la foto con i bimbi che la riforma del Senato. D'altra parte è meglio che la Boschi che faccia questa cosa che la riforma del Senato, dove mi sembra un po' così che abbia qualche difficoltà, quindi che faccia questa operazione è giusto, è bello, è magnifico, straordinario, e continui a fare così l'immagine del governo. Oggi Grillo ha scritto sul suo blog che Farage è spiritoso e non è razzista, e secondo me ha ragione al 100%. Farage è il tipico esponente del nazionalismo britannico, che ha delle espressioni maciste, rudi, ma non è assolutamente razzista, assolutamente, assolutamente. Poi ovviamente i giornali dipingono Farage come si ha incontrato Grillo come un pericoloso reazionario che vuole sopprimere i gay, le donne e i neri. Non è così, non è così. Oh, c'è tutta la questione Giovanardi droghe di ieri sera. Poi vedremo. Intanto in collegamento dalla Colombia, amici miei, e ho detto Colombia, Oliviero Toscani. Sì, ciao Oliviero, come stai? Sai dov'è la Colombia o no? Beh, dai, non pensare che sono così incoglionito. No, perché dalla Colombia come se fosse su Marte. Ma no, oh, ma Madonna. Io te lo dicevo. Ma che ore sono lì? Sono le 11:30 di sera, Parenzo. No, di mattina. Vedi che non sai dove è la Colombia. Ah sì, è in Sud America, sì, è vero, di mattina. Indietro, di mattina. Scusa, Oliviero, ma che ci fai cosa in Colombia? C'è una conferenza internazionale. Sì. Sulla droga? Sulla droga. No, non sulla droga. Sul marketing della pubblicità e l'inclusione nel marketing della pubblicità. Vabbè, una cosa quindi di contro esperti. Il razzismo. Una cosa contro di esperti, razzismo. Di esperti, amici. No, una roba per Grillo, per te, per tutti. Ah, per Grillo, sono. Perché secondo te hai incontrato uno razzista? A te non ti piace questa cosa di Farage, dimmi la verità. No, lo trovo che sia imbecille, non è che non mi piaccia, non è che tutte le cose imbecille non mi piacciono, sono anche divertenti. Cioè, chi è imbecille, Grillo o Farage? Io vorrei aver incontrato una roba da imbecille. Ma lì è una bella combinazione. Cioè perché devi incontrare quello lì, scusa, non è che devi andare in prigione per sempre, cosa, la libertà, insomma, dai. Cioè, cioè spiegami, questo incontro è una roba che ti fa schifo? Ma no, ma non fa schifo un incontro, lui può fare quello che vuole, però io dico è inutile, ci sono delle persone più interessanti a incontrare, se facesse una politica un pochettino più sensata. Ah, cioè secondo te Grillo non sa che fare? Ieri Freccero ha detto, beh, è un po' depresso, e quando uno è depresso, per mia esperienza, per esperienza diretta, fa un po' di cazzate. Ha ragione? Beh, logico. Ma ha ragionissimo, no, ma ha ragione il povero Grillo, non so più da che parte girarsi. Ma infatti lui a questo punto dovrebbe dimissionare, ormai basta, è finito, l'hanno mangiato. Dovrebbe abdicare, sì, è vero. No, dovrebbe abdicare, lasciare andare, adesso vedere cosa fanno tutti questi qua che dicono essere bravi, che forse magari lo potrebbero anche essere senza di lui. Cioè, secondo te il Movimento 5 Stelle dovrebbe liberarsi di Grillo? Ma io l'ho detto dall'inizio che sarebbe successo, non so se vi ricordate. Sì, come no, come no. Un giorno verrà cannibalizzato dal suo movimento. E il suo movimento lo sta facendo sparire, ma si lasci andare. In fondo ha messo in piedi una cosa molto interessante. E Casaleggio? E Casaleggio? No, poveretto, io non so bene cosa faccia. Beh, come fa? Fa il guru? Sì, fa il guru. Che mestiere è? Scusa, ti dico, se domani dico vieni a fare il guru, tu dici Silenio, cosa fai? Dai. Nel movimento è una sorta di consigliere di Grillo. Ma uno non dei serve a niente, è ridicolo col cappellino nero. Ma dai, è ridicolo, una roba da. Cioè, quando lo vedi, a cosa pensi? Vecchi, si ricorda cosa faceva? Sono vecchi, però sono gli unici vecchi. Senza i loro, senza le performance di Grillo, non c'è manco in quel 20. Dubbio, io ti dico ufficialmente, ho votato il movimento, però sì. Non ho votato Grillo perché mi sta sui coglioni. Capisci? Così come non ho votato Renzi, che lui è il più grosso grillino che io conosca, sì. È il più grosso grillino di lui. Il più grosso nemico di Grillo è stato Renzi. Renzi, sì, quello è vero, il Movimento 5 quello Stelle. È, vero. È l'uomo del Movimento 5 Stelle, va bene. Non ho votato Renzi, cioè, Grillini, perché mi sta sulle palle il suo partito. Grillini, affidatevi a Renzi. Trovate. Sì, Grillini, affidatevi a Renzi. Renzi è il grillino per eccellenza, è chiaro. Ma scusa, i voti chi li piglia però nel movimento? Li piglia Grillo ancora, senza Grillo e Casaleggio, questi ma qua. Ma non è vero che li prende Grillo. Grillo li ha persi ormai. Li ha persi. Grillo li ha persi. Cioè, è un peso ormai, Grillo è un peso. È un peso, è come Pannella per il Partito Radicale, uguale e preciso, con tutto rispetto, ma è così. Cioè, secondo te gli ideali ci sono, le persone, Grillo, quelli che li incarnano, cioè Grillo e Casaleggio sono come Pannella, ormai sono un peso, sono viste sì, come... Sì, sono il disastro del Partito Radicale, poi Marco purtroppo è così, pur essendo un grande uomo ci ha segnato tanto a tutti, no? Però in questo momento fate il movimento di rame, di marmo, come volete, ma non tenetelo lì perché è controproducente. Persino mia sorella, che ha 11 anni più di me, che sì. Tutta la vita è stata radicale, 83 anni, dice, ma cosa sta succedendo? Ma non è possibile che Marco faccia questo. Scusa un attimo, ma Grillo e Farage, no? Questo Farage è razzista secondo te, questo qua? Uno parla male delle donne, dice beh, che... Insomma, dice delle cazzate che non è possibile, non è neanche razzista, è pirla. Cioè, è pirla. Perché una cosa, Grillo che lo incontra è una roba di disperazione, di depressione, cos'è? Cioè, non sa ma come... una roba per far parlare un pochettino, sennò cosa racconti di Grillo oltre che ha perso? Non racconti niente. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Sei ancora in casa, Simo? Giardino, ruggisce tutta la notte. In collegamento dalla Colombia, Oliviero Toscani. Ma qualche botta te la sei fatta, Oliviero? Qualche botta? Non aver paura, che le botte me le faccio sempre. Cioè, le botte di che? Di coca? Eh? Te le sei fatte? Una botta in Colombia, una botta te la sei fatta, dai. Coca light, Coca-Cola, coca tutto qua. Cioè, ma veramente di fare le botte di coca? Sì. Cazzate, faccio le botte di coca non riuscirei neanche a parlare. E vabbè, che ne sai, magari parleresti biascicando. Un alto naturale, io, capito? Non hai bisogno, non hai bisogno delle botte di coca. No, la bisogno di coca hanno bisogno di Giovanardi, quelli lì, mica io, ma figurati. No, ma Giovanardi che c'è? Quello odia la droga. No, la odia perché non fa abbastanza come lui vorrebbe. Cioè, tu dici che Giovanardi con una botta di coca andrebbe alla grande, dici? Madonna, diventerebbe finalmente interessante. Ma tu ogni tanto qualche canna te la sei fatta, perché oggi c'è tutta una discussione in Italia di nuovo sul fatto che potrebbero liberare i piccoli spacciatori, le pene, eccetera, eccetera. Ma giusto, ma che cosa, è chiaro che devo liberare. Ricordati bene, sì, che tutti quelli che sono tolleranti verso questo sono i meno consumatori, non sono i grandi consumatori. I grandi consumatori nelle cose, i grandi oppressori agli omosessualità, per esempio, sono gli omosessuali. Vi ricordate Hoover? Sì, capo sì. della CIA, era tremendo con gli omosessuali, lui era la più grande checca di New York. E dunque, applicato la droga, che vuol dire? Poi è la stessa roba, tutti quelli che hanno un problema, che sono contro, che sarà, sono i più... I più? I più... Dunque è giusto che questi qua vengano liberati, questi piccoli spacciatori, questi... No, ma i piccoli consumatori... Spacciatori, tu dici, piccoli spacciatori... non devono stare in galera, dici? Ma no. Scusate, ma oggi Grillo si è visto sulla spiaggia di Bibbona, lì dove ha la casa, no? In Toscana. Parenzo, hai visto questi immagini? A Marina di Bibbona si è visto con una corona di spine in testa, una corona di spine. Come mai? Che messaggio era, secondo te, che sei un... Non sa più cosa fare, poretto, è disperato. È disperato, dici. Sente Gesù Cristo, sì. Ma hai fatto già un film dove lui era Gesù Cristo, non vi ricordate? Sì, è vero, è vero. Sì, hai ragione. No. Lui c'ha questo complesso di non essere Gesù Cristo, forse che di non avere la mamma vergine. Non so, una delle due cose. Dici? Sì, tu cosa pensi? Forse la mamma. Non lo so, forse la mamma, sì, forse. Sì. Tu dici che uno che si mette la corona in testa sulla spiaggia ha perso la brocca ormai. Ha perso la brocca. Anch'io abito lì vicino, lo sai, no? Sì, lo so, come no, come no. Ma ci dobbiamo vedere prima o poi da quelle parti. Andiamo a fare una visitina a Grillo, andiamo a fare andiamo a fare una puntatina dalle parti. È una casa di bellissima, molto semplice, devo dire, nessuno pensa alla villa di Grillo. No, no, assolutamente. Ah, Grillo, devo dire che Grillo è una persona molto piacevole, anche devo dire che mi ha sempre fatto molta impressione, per esempio quando viene a trovarmi, come tocca gli animali, i cavalli, i cani, è una persona di altissima sensibilità, guardate che è il contrario di quello che, di come si fa conoscere, è stranissimo questa sua. E poi invece in pubblico appare arrogante, tu è dici. Uno stronzo, ma io ho sempre detto che parla come Goebbels, vi ricordate? Sì, o no? Come no, dall'inizio come no. Ho avuto problemi con lui. Cioè tu all'inizio, fin dall'inizio... Dice le cose giuste come Goebbels, è uno schizofrenico, poveretto. Del resto un grande comico non può essere che così. Comunque, comunque Toscani, lei se l'è presa un po' in quel posto, perché Oliviero, scusa, te la sei presa in quel posto perché la Lega ha stravinto le elezioni, Salvini, hai visto, no? Alla grandissima è andato. Devi venire con me a Pontida adesso. Sì, ma chi ha stravinto? 4% 4 gatti. No, 6%, 6%. Ma sono 4 gattini, poveretti, che dopo che aver rubato adesso miagolano un po', oh madonna. Vabbè, dai, non esagerare, ha preso il 6% con una grande campagna elettorale. Salvini non ti piace, no? No, non mi piace, è bravissimo nel suo nella sua mediocrità, bravissimo, ma non è ma quanti anni ha? Sembra un vecchio, ma io, quelli della mia, 38, generazione 39. Non sono vecchi come lui. Beh, 39 anni, dai, 39. Però sembra un vecchio. Un vecchio, con delle idee preistoriche, ma non ha vergogna, vive nel 2014, ma deve girare il mondo questo leghista, di questi leghisti, non rimanere in Padania che c'è la nebbia, che non permette la visione. Tu dici sono troppo ristretto, Padania, no? C'è la nebbia. Sono troppo ristretti, dice, di visione, di immagine. Poveretti, sono ancora lì con questi problemi, quando il mondo è grande, Dio santo. Cioè bisogna aprire le frontiere. Contro l'Europa, ma io sono nato in un paese nel 42 che era monarchico, fascista, alleato coi tedeschi, sotto le bombe degli alleati. Sì. Va bene? L'unica cosa che siamo riusciti a fare l'Europa, finalmente è impensabile di fare che la guerra sia fra gli europei. Sì. Sono stati i più grossi macellai della storia, va bene? Sì, e allora? Adesso abbiamo fatto l'Europa e adesso diciamo non vuole più l'Europa, ma Salvini è cretino, cos'è? Non vuole più questa Europa, ne vuole un'altra, diciamo, dice lui. C'ha ragione, però. Ma pensa un'Europa fatta da questi qua, che disastro, arriverebbe a Biategrasso e finito. Scusa un attimo, ma no, l'immagine... A Gorgonzola, ma almeno mangiamo... C'ha ragione. Ma anche tu sali sul carro di Renzi, allora? Ma no, io non ti ho detto, avrei votato Renzi, ma non mi piace il suo partito, che è a base di acido solforico. Vabbè, ho capito, però uno vota anche il leader, non è che vota solo... No, non voto la personalità. Non allora, voti la voto un movimento. Il Movimento 5 Stelle mi piace, perché posso dire che è già internazionale, c'è un sacco di giovani che la pensa così, che non gliene frega niente a destra e a sinistra, vogliono un mondo diverso. Perché la destra e a sinistra non ha fatto altro che delle vecchie cagate. Comunque Borghezio ha detto che è andato a puttane in Congo, a prostitute in Congo, ed erano bellissime, più belle della Chieng, negli anni. Sicuramente più belle di lui. Negli anni 70, beh, quello, quello diciamo non è complicato. Ma pensa, uno che dice una roba così è proprio un cretino, scusa. Ha raccontato questo episodio. È un cretino che cava di raccontare un episodio così, ma chi se ne frega dove va lui a puttane? Ma zio, senti, l'immagine della Boschi con i bambini, come l'hai vista tu che sei un cultore di queste cose, sei un esperto? Quella foto. L'immagine della Boschi che è stata mandata lì da Renzi per prendere i bambini adottati. Sì, ma questi qua sono azioni che per ricerca di voto. Beh, però dopo le elezioni. Comunque, una roba di comunicazione, ma è una roba che ti sorprende, ti fa schifo, ti indigna, no? No, ma non mi deve, è molto buon mercato, una roba così, è molto poco. Queste cose qua è come le donazioni, vanno fatte senza farsi pubblicità. No. Però parli proprio tu che insomma, hai fatto dell'immagine della foto. Tu dici che però quando sui bambini adottivi non si può speculare. Bambini adottivi, donazioni di soldi non si in silenzio. Si fanno, ti abbraccio dalla Colombia, fatti una botta, eh. No, scherzo. Sette al giorno. Ciao caro, ti abbraccio, a presto. Ciao. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Pronto? Venuta nel mio spazio sotto il salice, Pronto? E il conduttore? Sì, il conduttore, certo. Borghezio e gli scafisti. Sparare in testa. Ora, l'indicazione borghezziana sarà anche estremista, sarà anche esagerata. Però vuole dire il signor Borghezio, cosa vuole dire in fondo? Che niente. Dobbiamo colpire. Niente, vabbè, dobbiamo colpire. Gli scafisti proprio lì. Cioè dobbiamo colpire gli scafisti sul luogo, sul posto. Dobbiamo fermare quelli che portano gli immigrati, li dobbiamo fermare sul posto, li dobbiamo attaccare lì. Adesso lascia perdere, sparare in testa. Poi, certo. Beh no, lascia perdere niente, perché come ricorderai e farai sentire ora, l'ha ripetuto più volte anche con un certo gusto. Tu non lo avevi davanti, ce l'avevo io davanti. E lui aveva proprio il gusto del dire sì, sparagli in testa. Tu dici bisogna ammazzarli sul posto, cioè, farli fuori sul posto. Possibilmente prima che partano, così si evita anche di avere spese con quelli che arrivano. No, ma come spese? Ma parliamo di esseri umani, Borghezio, però. Certo, ma esseri umani vanno curati. Ma certo. Sono esseri umani. E l'altro che ride, basta curarli alla partenza. Anziché curarli all'arrivo, curiamoli alla partenza. Se tu dici. Spendiamo anche qualche soldino. Sì. Quando si è fatto, e forse si è fatto. Quando si è fatto e forse si è fatto. Abbiamo fatto un culo così, non sono partiti. Ma raccontami un po', perché tu eri a Roma, raccontami un po' quando diceva e quando si è fatto, è partito, forse si è solito, fatto. Tutto molto piano, no? Sì. Con quei suoi occhi, no? Guardando il microfono e guardando me in modo sfidandomi, in modo rosato. Quando si è fatto? Quando si è. Era un crescendo continuo, il famoso crescendo non rossiniano, ma il famoso crescendo borghezziano si chiama. Il parte è cominciato tra le zanzare e i fossi, saremo tutti nudi, tutti rosa, Fuarossi. Riccardo da Roma, grande ritorno di Riccardo da Roma, caro Parenzo. Ieri, proprio alla fine della puntata di giovedì, c'è stato questo ritorno in grande spolvero, perché sei indignato per una tua frase sui Rom che in realtà... Vediamo il contributo che darà la Riccardo nostra Riccardo da Roma, è tornato il fan club di Riccardo da Roma, è arrivato a oltre 1300 iscritti. 1300 iscritti. 1300 poveri disperati. Attenzione a quello che dici, che si scatenano. 1300, oltre 1300, Riccardo da Roma. Ha telefonato Riccardo da Roma. Occhio o no? Pagliaccio, adesso mi fai parlare, ecco, un attimo. Stai, eccolo qua. Eccolo il solito Riccardo, allora, da Roma. Punto. Chiama. Vado subito al dunque. Zitto. Zitto. Stai zitto. Una serie di insulti. Dei radical chic. Eccolo qua. Ipocriti, buonisti, cattocomunisti di merda che rovinano la nazione. Ha telefonato quello da Torino. Torino, tra l'altro, nota città di merda piena. Proprio se guarda, il peggio di Parigi, pare, no? Comunque, Zingarelli, poverini, queste persone, assumeteli, che cazzo, allora a parte questa cosa assumetevi, assumetevi, no? Cioè, fammi capire, ma chi deve assumere? Lo Stato? Cioè, ma vogliamo regalare i soldi pure a questi? E poi in ogni caso, voi avete mai provato a far lavorare uno zingaro? Quello, ah, c'è gente che deve nascondere la propria identità, ma che cazzo, questa è una cazzata più grossa di quella di Valenzo che gli mandavano la visita fiscale, c'è una cazzata più grossa, non la poteva dire che questi nascondono, questi non ci provano proprio a lavorare, diciamo le cose come stanno, se tu prendi uno di questi e gli dici io ti assumo a tempo indeterminato e ti do 800, 1000 euro al mese, quello sai che fa, prende il giorno dopo sarà ammalato e lo trovi di nuovo a rubare o a chiedere l'elemosina, è un dato di fatto, non ci prendiamo per il culo, basta con questa ipocrisia, basta! Invita i tuoi amici rom a cena, dice Riccardo da Roma. Capito, Paretto? Basta, non vogliono lavorare. Ecco il sociologo Riccardo da Roma. Il sociologo ha chiamato. Pata negra, compri formaggi costosi. Pata negra non lo compro. Pesci a 100 euro, 200 euro a botta, fai la spesa a 300 euro, vini pregiati. Guarda anche a noi, Zinger, te l'ho già detto un'altra volta. Te l'ho già detto un'altra volta, invitali. Ma ci vedi quanto ti anima bella. Ecco il sociologo. Ecco il sociologo, Sigmund Bauman, eccolo qui. Mamma mia. Invitali. Ho detto semplicemente che quell'ascoltatore ha ragione perché ha ricordato fatti veri, cioè spesso alcuni di questi sono costretti a nascondere l'identità. Non è che telefona qua il poveretto il Riccardo da Roma. E hai dato lavoro a 20 persone e poi hanno Roma. Conclusione di Riccardo da Roma. Ma senti, quale conclusione? Ma senti, non... senti. Ma non c'era nessuna conclusione. È volgare. Vabbè, ma dice quello che pensa a modo ma suo. Ma pare che uno dice quello che pensa anch'io. Ok, scusami. Allora lo dico come lo dici tu. Volgare. Il dottor Parenzo, brava persona, come dice la terapia, brava persona, il dottor Parenzo, non mi trovo d'accordo col dottor Parenzo sul fatto che forse gli zingari possono avere una collocazione nella società, secondo me i zingarelli, poverini, se li metti a fare l'elemosina, solo quello vogliono fare, è rubare, rubare. TG3 titoli. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Visco, Banca Italia, recessione finita, ripresa fragile, bene gli 80 euro alle famiglie, ma ora riforme per creare lavoro, più poteri contro gli scandali bancari. Da Banca Italia allarme Tasi, con aliquota massima dei comuni costerebbe quanto l'IMU 2012, il 60% in più del 2013, con la minimica in rincaro del 12%. Grillo difende l'alleanza con Farage, non è razzista, dice con noi molti punti in comune, ma i 5 Stelle si spaccano, con Roy insiste, Beppe sbaglia, l'Italia è Etihad vicino al traguardo, in arrivo il sì degli arabi, la compagnia di Abu Dhabi investe 500 milioni ma chiede 2500 esuberi, sospeso a Milano il processo a Podestà sulle false firme della lista Formigoni, accolta l'istanza di legittimo impedimento per lo scontro in procura tra Bruti e Robledo. Al TG3 il racconto di una mamma che dopo mesi ha riabbracciato la piccola Sifa di 3 anni arrivata da Congo a Ciampino. Dopo il Cagliari anche il Parma in vendita, il presidente della squadra emiliana si è dimesso dopo l'esclusione del suo club dall'Europa League. Oh, ieri sera, non so se hai sentito a un certo punto durante Tango, ma sicuramente avevi altro da fare. No, purtroppo no, ieri sera poi ero fuori, non sono riuscito. Vabbè, comunque non fa... Pardo. No, ma giusto per dire cosa. No, ho fatto. La Santanchè, ha detto a Ilaria D'Amico, stavano parlando dei processi di Berlusconi, sì, e le condanne definitive, e invece la Santanchè parlava di persecuzione giudiziaria, eccetera, eccetera. A un certo punto ha detto: ma se le mettessero a lei le telecamere delle mutande, senti, questa Santanchè. perché non firmate sulla legalizzazione della prostituzione? Fin quando non capiterà a lei, perché il giorno che gli mettono una telecamera lei addosso, stia pur certa che anche il giudice scoverebbe qualche reato. Soprattutto se gli mettono poi la telecamera nelle mutande, sarebbe ancora peggio. Quindi siccome io voglio vivere in un paese libero che non ha il vizio di guardare dal buco della serratura e della vita privata delle persone, e allora voglio dire, stiamo attenti, perché questa è una discussione, cara onorevole Santacchè, che ho sentito fare talmente tante volte. Stefano, provincia di Treviso, poi Giulio da Roma. Stefano non c'è, Giulio da Roma. Gianni? Sì, dimmi. Gianni, senti, ti devo dire che tu sei un bel ipocrita di merda. Sì, dimmi, perché? Ti dico perché ti sei sempre dimostrato a favore del progresso tecnologico, innovazione, soprattutto quando vengono dall'America, sì, capitalismo avanzato, sì. E poi su Uber, che rientra pienamente in questo scenario, non mi dici niente. Cioè, come non ti dico niente? Come non mi critichi la cosa scandalosa che hanno fatto, la cosa corporatista scandalosa fatta dai tassisti e da Uber, e fai la marchetta perché tutti i tuoi ascoltatori sono tassisti. Siete due bastarde nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare. Informazione fondamentale da Antonio Razzi. Non prendo neanche il Viagra. Oggi è venuto qua a trovarmi, di nuovo. Beh, numero uno. Sì, si è venuto qua. Non avevo un cazzo. Passava per Milano e mi è venuto a trovare alla radio. Cioè, Antonio Razzi. Secondo te, che è un senatore della Repubblica, c'è un cazzo da fare il venerdì, e diceva la saluta qua a Grugiana a Barenza. Ma qual è il problema? Scusa, non può venire. Ha fatto un passaggio di 10 minuti insieme al suo avvocato, è venuto qui, mi ha salutato. Il suo avvocato, uno dei suoi amici. L'avvocato di Razzi. Spiegami la scena un attimo. C'è un senatore della Repubblica, pagato tutti noi, Razzi. Ma che c'è? Stava a Milano. A Grugiana Barenza, a Radio 24. Ed è venuto lì così a chiacchierare con te un quarto d'ora. Sì, esatto, qual è il problema? Scusa, non ho capito. Cazzo. Secondo te Renzo Piano farebbe la stessa cosa? Secondo no, te? Renzo Piano. Che pure Renzo Piano ha disegnato lo stabile per quale siamo. E non è che ha tempo da perdere, da venire lì a salutarti. Ma che c'è? No, appunto, perché non ma fa politica. Che è una cosa pazzesca. Cioè, capisci la legge del contrappasso? Qual è pazzesca questa cosa? Non prendo neanche il Viagra. Non ci capisco niente con la droga. Non lo prendo. E non ne voglio sapere, no? Cioè non so nemmeno come è fatto, e nemmeno il Viagra, niente, io sono al naturale. Ultimo show di Sgarbi questa mattina, non so dove, credo alla 7 da qualche parte. Se la prende con il sindaco del Partito Democratico di La Spezia, che ha distrutto gli alberi. Altro obiettivo sgarbiano. Il TAR agisce contro lo Stato in nome di... Cosa fa? Dice che Braia ha torto, che io ho torto, che quella piazza almeno sarebbe come l'Eur, deve essere distrutta per diventare una piazza di Buren. Ecco cosa hanno fatto. Questo ha fatto il sindaco del PD. Questa è la merda d'Italia. Questo è. Ha distrutto gli alberi. Abbiamo vincolato con Brai, arriva il TAR di deficienti, annulla tutto e questo corre prima del Consiglio di Stato Padri. Per fare che cosa? Guarda la prossima immagine. Porca puttana. Hai ragione, E l'altro corre, parla. Renzi, parla. Mandate al diavolo questo sindaco. Un distruttore, un bandolo. Ha portato le foto della piazza di La Spezia, credo fosse, no? Dov'era? Prima e dopo. Perché? Secondo lui hanno fatto uno scempio. Hanno distrutto tutto. Alfano Fesso, senti, vabbè, queste ormai sono cose che dice mille volte, comunque risentiamole, va ad abundandum, come si dice. Quando senti questi del PD che siamo convintamente bipolari contro chi? Dall'altra parte non c'è niente, c'è un totale fesso come Alfano, un incapace assoluto come Totti, cioè chi sono gli altri? Cioè, cosa possono fare? C'è ancora Berlusconi, però. Ma Berlusconi è una salma, cioè non è che l'abbiamo già detto. Allora, l'esercito di Riccardo scrive l'ultimo intervento di Riccardo. Scusami un attimo, ma tutta questa. Tu ti rendi conto di che carrozzone sta stato costruito nel corso di questi anni, l'esercito di tutta questa gente, questa gente maleodorante, ma che roba hai costruito? Ma che carrozzone hai messo su? Un carrozzone vergognoso di personaggi, di gente immonda, di razzisti. Adesso l'esercito di Riccardo ha scritto che, ma come fosse chi? Zagrebelski, l'esercito, ma chi cazzo è l'esercito di Riccardo? Ma si può mettere una parola fine a queste mostruosità create, a questo schifo dilagante, questo blob, questa melassa di fogna che ogni volta salta fuori? Oh, adesso l'esercito di Riccardo, cosa ha detto l'esercito? Cosa ha twittato ora l'esercito di così importante? Cita Zagrebelski, no? Dice professor Zagrebelski. O meglio l'esercito di Riccardo di Zagrebelski. Allora, ecco, l'ultimo intervento di Riccardo è stato troppo breve. Hai il diritto ad uno spazio maggiore, così ti... Ma cosa? Che diritto di chi? Ma cosa? Oddio ragazzi, oddio mio. Oh, comunque, ragazzi, diciamo la verità, questo Farage, se quelli dei 5 Stelle capissero il programma o leggessero il programma in Inghilterra, allora aumentare del 40% le spese militari, far diventare l'Inghilterra una potenza nucleare, stracciare gli accordi europei per contrastare il surriscaldamento del pianeta, investire massicciamente su carbone e nucleare e lasciar perdere le energie rinnovabili, tu ti rendi conto o no? Privatizzare la sanità pubblica, io sono d'accordo quasi su tutto, eh. Sì, ma cosa c'entra con Grillo questa roba? Ah, no, appunto, dico, privatizzare la sanità pubblica, nazionalisti a mille, ragazzi, su, è il numero uno questo Farage, è il mio mito, è il numero uno! Oh, abbiamo Giulio da Roma che era in collegamento con noi. Allora Giulio, caro Giulio, qual è il punto? Che cosa vuoi sapere? Perché non mi sono pronunciato a favore di Uber? Io non ho detto di essere contrario a Uber. Per me possono fare tutte le Uber del mondo e i tassisti dovrebbero fare Uber. Anzi, ti dico di più. Se i tassisti devono capire, anzi alcuni lo sanno benissimo, che più si usano i trasporti pubblici, più si usano tutti gli strumenti dei trasporti pubblici, autobus, Uber, taxi, applicazioni, taxi sharing, quello che volete, più loro avranno da guadagnare. Più loro avranno da guadagnare perché non usano, perché la gente non usa la macchina propria. Questo io, di base. Hai difeso le licenze, dici che se uno si compra no, la licenza, poi no, lo so. Io ho detto un'altra cosa. Il mondo cambia. Se io investo oggi nei treni, domani invento il teletrasporto. I treni falliscono, io me la prendo del culo, come è giusto. No, io ho detto un'altra cosa, caro Giulio. Tu sostieni, tranne quando si tratta di tassisti. No, io ho detto un'altra cosa. Ho detto semplicemente che se ci sono delle regole che riguardano il trasporto pubblico, e per me in parte vanno anche cambiate queste regole, allora i signori di Uber si devono adattare a queste regole. Poi è vero che Uber ha una situazione un po' anomala, diversa, perché le regole sono del 92. Questa è la situazione. Io non è che sono contrario a Uber di principio. Dico semplicemente che se ci sono delle regole, qualcuno ha pagato delle licenze, per me è sbagliato pagare per delle licenze. Pagare per le licenze non dovrebbe esistere. Cioè il traffico delle licenze non dovrebbe esistere, l'ho detto sempre a moltissimi tassisti. Però siccome alcuni hanno speso 150.000 euro, non è che possono venire altri a fare lo stesso lavoro e quei 150.000 euro spariscono, perché non è possibile una cosa del genere. Libero mercato in altre istanze. No, ma è vero che poi a loro la licenza viene data praticamente gratis e poi le licenze poi tra loro. Esatto. Sì, esatto, però siccome per molto tempo è stata tollerata questa situazione, non è che uno può perdere, se uno ha comprato una licenza a 150.000 euro da un altro, improvvisamente sparisce questa cosa, non può sparire. Secondo me lo può fare benissimo, se io apro davanti una pizzeria davanti alla fermata dell'autobus, del treno, domani viene spostato, io domani fallisco, cioè come tutte le persone in questo mondo. I tassisti sono un conglomerato ignobile. No, ignobile, che mai sì, ignobile? Sì, sono un conglomerato ignobile, ma adesso io non trovo un taxi a Roma, cioè, ma cazzo, non è vero, sono arrivato alla stazione di Bologna, c'era una fila di 50 persone, perché questi non vogliono liberalizzare il taxi. Guardi, le dico una cosa. Ho dovuto camminare per Bologna. Lasci perdere la questione di questo. Allora, la cosa fondamentale è un'altra. Io uso per esempio il car sharing, quello qui a Milano, ce ne sono diversi, no? Cioè, più si usano queste cose, più uno è invogliato a prendere i taxi. Io da quando uso questi mezzi, cioè la macchina, quelle in affitto, no? Che vanno a chilometraggio, eccetera, eccetera, 25 centesimi al minuto, eccetera, eccetera, 25-29 centesimi al minuto, uso più anche il taxi, perché quando non trovo quelle piglio il taxi, perché non uso la mia macchina. Dunque, i tassisti, e lo sanno benissimo, sono consapevoli del fatto che più Uber c'è, più loro alla fine, alla lunga, guadagneranno. Il problema sono le licenze, amico mio, però va risolto questo problema, o no? Sì, va risolto, però, ho capito, sii coerente col tuo classico profilo politico e di che è uno scandalo la cosa delle licenze, è uno scandalo. Ma io l'ho detto che le licenze vanno tolte. L'atteggiamento no. corporativista. Ma liberalizzate, che vuol dire liberalizzate? Bloccano le città contro l'economia libera, bloccano le città contro le innovazioni tecnologiche. Il blocco delle città dopo alcuni giorni è sbagliato, lo sanno anche loro. Senta, poi io i tassisti devo parlarci, nel senso che sono della gente che guadagna veramente 4 lire. Cioè, sono della gente che veramente guadagna 4 lire. Ce la vogliamo pigliare con loro? Ce la vogliamo pigliare con loro o no? Lo so, cioè, io mi sono fatto tutta Bologna a piedi perché alle 8 di sera la stazione. Vabbè, Bologna c'era uno sciopero. Io sono contrario, perché... io gliel'ho detto, io sono sempre contrario agli scioperi perché non portano a nulla. Spesso non portano a nulla. Grazie, Giulio. Franco da Roma, Franco. Salve. Vai. Salve nulla, volevo dire, far presente al signor Toscani dalla Colombia, sì, che ha chiamato, sì. Che insomma tutto sommato il 5 Stelle è il secondo partito, non siamo molto depressi come lui pensa, finiti, Grillo si deve dimettere, qui chi si deve dimettere è tutta questa gente che della Seconda Repubblica, che stiamo soltanto parlando delle telecamere mezze mutande e cose varie, pregiudicati. Ma che c'entra le telecamere in mezzo alle mutande, scusa? Mi sembra che prima qualcuno abbia parlato di telecamere in mezzo alle mutande. Ma che c'entra? Ma quella è la Santanchè, ma non c'entra niente. La Santanchè, appunto, si parla di questo, e lei lo deve dire, si parla di questo, Beppe Grillo tutto questo non è uscito fuori, di Beppe Grillo si parla soltanto che loro prendono uno stipendio molto più basso degli altri politici, si parla di Beppe Grillo... Sì, ma la politica non è fatta solo di abbassarsi lo stipendio, ma ha capito? Non è bastato soltanto questo, ha cercato di fare tantissime cose e le l'hanno censurate, non gli hanno dato l'opportunità, lo sa benissimo anche lei questo, lo sa benissimo tutti, lo sanno che c'è un discorso giornalistico politico, lo sapete benissimo e ci siete riusciti, ha rivinto di nuovo la Seconda Repubblica e infatti al Parlamento quando si sono incontrati hanno festeggiato. Perché hanno festeggiato? Perché l'hanno scampata pure questa volta e voi lo sapete. Va bene, Antonio da Foggia. Antonio, allora, buonasera. Dimmi. Senta, volevo chiamare, ho chiamato anzi per parlare di nuovo del discorso dei Rom ieri sera, che ho sentito Riccardo che si incazzava come una bestia. Volevo fare una piccola domanda. Voi avete mai visto un F24 di un Rom? Un F24 di Roma, dipende, alcuni ce l'hanno, altri non ce l'hanno a seconda di quanto guadagnano. Certo, alcuni guadagneranno anche in nero, come molti italiani peraltro, come molti italiani diciamo di nazionalità cresciuti, nati e cresciuti in Italia. Come? Io non ho mai visto un F24 di Rom e ne so di F24. Parenzo, esistono gli F24 di Rom, tu che li conosci? Esiste, ma che cazzo di ragionamento è? Ma adesso io la colpa di Riccardo da Roma e di tutte queste migliaia di persone che tu dici hanno aderito a questo schifo di club razzista. Ma che schifo di club razzista? Ma che dici? Sei impazzito? No, bisogna cominciare a dire le cose come stanno, me ne frega niente. Li hai fatti assurgere a mettre a pensée di questa trasmissione, questa fogna di gente che si permette di telefonare e di sparare a zero. Alcuni Rom rubano come alcuni Riccardi da Roma rubano. Cioè Riccardo da Roma ruba? No, ho detto come alcuni, ci sarà uno che si chiama Riccardo. Non è la stessa cosa, non puoi dire che è la stessa cosa. Non puoi dire che è la stessa cosa. Bisogna smetterla di fare un razzismo etnico sui reati. I reati sono reati, punto e fine. Il male, i Rom alle volte rubano, ci sono alcuni Rom che sono diciamo che hanno una tendenza, no? Le percentuali diciamo che sono maggiori, diciamola tutta, le percentuali sono maggiori. Allora, ci sono un sacco di Rom che, come ti ha raccontato quell'ascoltatore, lavorano. A proposito, dov'è il tuo? Dov'è il tuo codice? Non possono dichiarare perché? Perché altrimenti dovrebbero non dichiarare tutto. Perché altrimenti tu dovrebbero regolarizzarsi. Reggia, dovrebbero nella regolarizzarsi. Tua reggia milanese, nella tua reggia milanese. Ma quale reggia? Se uno arrivasse da lì e ti dicesse: Cruciano, sono un voglio venire a lavorare nella sua magione. Sì. Tu giustamente prendi informazioni su questa persona. Sì. Se sapessi che questa persona vive in ma una sono lotta, gli stessi, ma sono loro che non si vogliono cosa mettere faresti? In regola. Smetti. Cosa dai. Faresti? Cosa dovrebbero faresti? Dovrebbero dare un indirizzo. Dovrebbero dare un indirizzo e tutto. Dai, dovrebbero dare un indirizzo e non lo vogliono fare, non lo vogliono dico fare. Dico che probabilmente qualche siccome non sono un'anima ben pensante, forse anch'io avrei qualche dubbio. Le zanzare di casa mia. Beh, un grande ritorno alla Zanzara, un grande ritorno alla Zanzara con Ugo Sposetti, buonasera. Come state ragazzi? Bene, deputato del Partito Democratico. Eccoci qua. Allora? Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti mi avete fatto beccare una querela. Beh, poi però la querela è uscito trionfatore da questa querela. Assolutamente, sono ritornati a casa i vostri colleghi con molte ferite sul corpo. Diciamo, come dire, sono tornati con la coda tra le gambe, come si dice in senso... Diciamo feriti, feriti. Feriti, signori del Fatto Quotidiano. Ricordiamo, non lo so, non li conosco. Ah, non li conosce, non vuole più mettersi nei guai, però non vuole più. No, lo sapete che non li amo, quindi lasciamo vedere. Ma adesso erano diventati grillini a un certo punto, no? Sì, difatti l'ho beccato pure stavolta, perché loro le indovinano tutte. Loro sono scienziati della politica, del giornalismo, della comunicazione. Come si fiondano su una cosa, allora quello è morto. Ah, tu dici, eh? Sì, caro Ugo, ti posso dare, ci diamo del tu, che dici? Sì, assolutamente sì, assolutamente. Diamoci del tu. Allora, quelli del Fatto, hai detto, sono talmente scienziati della politica che quando lo saltano su un carro, alla fine questo carro affonda, diciamo. Avete visto che hanno fatto? Quello stava vincendo, tac! Tac! Sono saliti sopra, morto tu dici, no? Finito, sì, morto, morto. Morti. Senti, a proposito di Grillo, ma questa svolta a destra, ecco, tu che sei un uomo della sinistra, Partito Comunista, PDS e tutto quanto, ma come la vedi questa cosa? È una cosa naturale? Tu dici, rientra nel suo albo naturale? Tu hai sempre sostenuto che era uno... No, io dicevo di destra quegli altri, che i vostri amici. Questo... Chi i nostri amici? No, lui non è, lui è... Chi sono gli amici nostri? Quei giornalisti che mi hanno querelato. Ah, tu dici di destra sono quelli. Vabbè, tu hai sempre detto che sono di destra quelli del Fatto, no? Assolutamente sì. E continui a dirlo. E continua a dirlo. Continua, sì. Sono di destra, vabbè, ma io parlavo di Grillo adesso. No, di Grillo. Lui ha sbagliato gli ultimi 10 giorni, ne ha combinate più di carne in Francia. Cioè ha terrorizzato gli italiani, secondo te, Ugo? Bella, si era spaventati, poi è andato a parlare di Berlinguer. Ecco, appunto, hai capito? Quella non si può fare. Ha profanato Berlinguer. Ah, ecco, Parenzo, ma perché non si sente niente oggi? Ma io non capisco, sarò io strano. Ma devi stare con la... se stai col telefono. Caro Sposetti, io divento pazzo, perché quest'uomo qui fa la radio da 4 anni, ogni tanto mette il telefono in maniera strana. Cioè, no, ma io dico questo, se ci fossero ancora i soldi di Mosca, avrei un telefono più funzionante. Questo purtroppo... Questo è vero. Parenzo, te lo do uno io ho un vecchio cellulare che funziona benissimo. Quello dei servizi sovietici. No. regalato dai rubli, caro Sposetti. Ma quanti rubli hai visto tu nella tua vita, caro Ugo? Tre volte che sono andato a Mosca, prima in Unione Sovietica, adesso in Russia, e bisogna cambiare i rubli. Se stava bene in Unione Sovietica, però, di la verità, un po' se stava bene in Unione Sovietica. Girare il mondo che si sta bene. No, girare, però all'Unione Sovietica era un posto dove si sta bene, quando c'era il comunismo, no? Adesso non esagerare, Cruciani, portare a fare. No, però tu sei un po' era un bel posto l'Unione Sovietica, dai, su. Quando andavi vedevi delle robe meravigliose, o sbaglio? No, io ci sono stato adesso pure in Russia, ma sono stato pure in altri paesi. No, ma quando andavi in Unione Sovietica? Oh, Cruciani, insomma, mica malato, Ah, tu dici che non si può rimpiangere il comunismo, dici te. Ma ritorniamo alla campagna elettorale, quella ha sbagliato. Poi il segretario del PD e presidente del Consiglio è stato bravo quando a Piazza perfetto, del Popolo. Perfetto, direi, o no? No, adesso perfetto non c'è, non esiste al mondo una cosa perfetta. Però è stato bravo. È stato bravo. Quando quello là attacca Berlinguer, lui a Piazza del Popolo dice giù le mani da Berlinguer. E quindi tutti quelli che c'erano un mal di pancia... Correnzi. Sono ricompattati, dici te, no? Certo. Anche tu? No, io non ce l'avevo un mal di pancia. Io ho fatto la campagna elettorale e ero molto stanco. Ah, sei salito sul carro pure tu. Alla fine sei salito sul carro. No, non dire queste stupidaggini. Sei salito sul carro, Ugo. Dai, su, sei salito sul carro, dai. Allora, ascoltate bene una cosa. Dici. La sinistra. Sì. È stata storicamente sempre con il segretario, come la Chiesa sta col Papa, cioè c'era Ratzinger, è arrivato Francesco, tutti stavano con Ratzinger. Questo è molto interessante. Stanno tutti con Francesco, non è che sia la cosa, prima c'era voi Dio e stavano tutti con voi Dio, prima Giovanni XXIII. Cioè tu dici il partito è come, partito è come la Chiesa. È, partito, è come la Chiesa. È come la Ci Chiesa. Sta col segretario, punto. Però scusami Ugo, tu ma io l'ho detto, di tutti i colori, ne hai dette di tutti i colori su Renzi. Ma durante quando c'è la battaglia si fa la battaglia, non c'è mica. Ah, dici poi dopo la battaglia zitti. No, ma io ho detto in interviste, e oggi è il mio segretario. Oggi sì. È il mio presidente del Consiglio, punto. Punto. Non sono renziano, io c'ho una corrente, io sto con una corrente che sono solo, so io. No, oddio, beh, no, non sei da solo, dai. Non sei da solo, cioè, Cioè, in giro in Italia non c'è uno che si può dire sposettiamo, sono solo io, punto. No, d'accordo, benissimo, sei solo qua, ormai sei rimasto da solo a essere favorevole al finanziamento pubblico, l'unico che dice che bisogna mantenere il Senato, più o meno, no? Più no, o meno. Non ho detto mai questo. Beh, questo più o meno, il Senato elettivo, no. Sei d'accordo a mantenere il Senato elettivo? Ma quella è una cosa che alla fine si risolverà, cioè? In aula tranquillamente. Cioè resterà il Senato elettivo alla fine, tu dici? Alla fine si resterà il Senato elettivo. Ma no, non sono molto affascinato da questa cosa. Da questa cosa qui. Un attimo solo, abbiamo la pubblicità, grande Ugo Sposetti che ha paragonato il partito, nonostante i cambiamenti, come alla Chiesa. Cioè il partito è come la Chiesa, uno fa la battaglia anche contro, una volta persa la battaglia, tutti col segretario, come è giusto che sia da un certo punto di vista. La zanzara è quell'odioso insetto. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. E beh, non ha tutti i torti questo ascoltatore che abbiamo fatto diventare un nostro paladino, un nostro simbolo, ma qui siamo con il deputato del Partito Democratico, deputato, insomma, non è un deputato qualunque, esiste la corrente degli sposettiani incarnata da lui mem, da sé medesimo, Ugo Sposetti è con noi, ex tesoriere, eccetera, eccetera, considerato l'uomo insomma che sa un sacco di segreti sui soldi del Partito Comunista, però a noi non ce ne frega. I segreti ci sono. No, vabbè, ma a noi si dice, si legge, ogni volta che leggo il nome di Sposetti lo leggo accostato a queste cose, ma non ce ne frega niente, ci sta simpatico lo stesso, nonostante quello che si dice. Soprattutto per questo. Soprattutto per questo, io però voglio chiedere a Sposetti una cosa. Renzi, come lo considera? Lei dice, è il segretario, però è stato geniale in questa campagna elettorale, è il vero leader che avete trovato, finalmente uno che vi ha portato al 40%. Chi le ricorda come leader, diciamo, di sinistra? Se è di sinistra poi, secondo lei, Ah, è stata una campagna particolare, intanto sono le elezioni i competitor si davano dell'evasore fiscale uno dall'altro, poi uno parlava da casa, non poteva uscire, quell'altro che straparlava un po' sonato, mi è sembrato, negli ultimi 10 Grillo, giorni. Grillo, ma lei come lo considera? Uno un po' destrorso? Pericoloso, un po' fascistoide. Mi ricordo che quando me l'avete chiesto la prima volta feci una distinzione tra il comico politico presunto tale e i giovani e chi aveva creduto e credeva in questo movimento perché disagi, il lavoro, il cambiamento, quindi distingo sempre. E difatti, quando dopo un anno di vita parlamentare, un terzo dell'elettorato li ha abbandonati. Questo è. Vabbè, lui com'è secondo lei? Un po' fascistoide, un po' destrorso, pericoloso, Grillo? No, io l'ho sempre apprezzato come un bravo comico. Lui ha fatto molte feste dell'unità, ve lo ricordate? No? Era meglio la festa dell'unità, dice lei, piuttosto che adesso. Era molto meglio prima. Ma sì, perché ognuno deve fare il suo mestiere, perché sennò se tutti facciamo tutto, tutti vogliamo fare tutto, ognuno di noi lo fa tutto. Lei se lo ricorda meglio alle feste dell'unità, però bisogna dire una cosa, Berlinguer, lei quando ha sentito la parola Berlinguer in bocca a Grillo e a Casaleggio, cosa ha provato? Non sanno un cazzo di Berlinguer, diciamo. No, non sanno nulla. E poi avevano esagerato e difatti hanno pagato pesantemente. Ma è mica per Berlinguer adesso, cioè non è che per Berlinguer. Anche. Perché dice la sinistra si è compattata dietro il Partito Democratico dopo questa cosa qua. Cioè, adesso toccare Berlinguer a 30 anni dalla morte, poi adesso tutti i libri che si pubblicano, si stampano film, l'11 e il 12 saranno due giornate bellissime a Roma. Ma non viene un po' troppo santificato sto Berlinguer? In fin dei conti pigliava pure lui i soldi dall'Unione Sovietica, o no? No, lasciamo perdere i soldi dell'Unione Sovietica, lui ha fatto una... Cioè, ho capito, io devo fare il bastian contrario, Sposetti. No, no, Cruciani, no, tu fai il tuo mestiere, mica ti dico, ma Berlinguer non era Berlinguer. È la questione morale, i buoni, i cattivi, i buoni, i cattivi. 15 anni della sua segreteria, sono stati di grande elaborazione politica, il compromesso storico, abbiamo difeso l'Italia dal terrorismo. Scherziamo su questo. Però c'è una santificazione eccessiva. Guardate che c'è, la santificazione eccessiva può esistere, ma è meglio la santificazione che uno che dimentica, no? Senta, ma a proposito, io però la domanda su Greganti gliela devo fare per forza, lei lo sa che gliela devo fare la domanda, no? Ma il compagno giusto, lo sa, al Senato l'ha fatta entrare lei? Guardi. Se assolutamente no, perché non l'ho mai incontrato. Da quant'è che non lo vede? Ma guardi, io non lo conoscevo prima di incominciare a fare questo lavoro 15 anni fa, sapevo solo, lo conoscevo da giornale. L'ho solo incontrato due o tre volte per consigliargli di stare lontano da voi, dai giornalisti. Perché ma questo quando? Sì. Quando? Ma 5-6 anni fa. Poi non l'ha più visto? No, quando dicono che veniva al Senato, onestamente non l'ho visto. Se l'avessi incontrato, gli avrei consigliato di girare alla larga. Addirittura? Sì. Ma perché? Perché è condannato, eccetera? No, perché non vedo perché voi, se lo incontrate con me, chissà che cosa pensate. Non c'è niente di strano se uno incontra una persona. No, ma infatti... ha sbagliato. Cioè... Ma lei come la considera? Un bravo uomo? Una persona onesta che fa... Guardi, non ti so dire, non ci ho mai lavorato, quindi non so le cose che mi hanno raccontato e so le cose che ho letto dal giornale di questa persona, ma non so... purtroppo non l'ho incontrato da anni, ripeto, se l'avessi incontrato gli avrei consigliato di evitare strane compagnie. Ma è giusto, cioè di non frequentare i giornalisti, gli avrebbe consigliato di non frequentare i giornalisti, di non vedere i giornalisti. Assolutamente, quelli di stare lontano. Ho capito, voi l'avete massacrato. Come l'abbiamo massacrato? Beh, scusa, però sì, è certo. Ma qualche colpa ce l'avrà pure lui, no? Quando ha sbagliato ha pagato. Adesso c'è. E adesso che ruolo ha avuto secondo lei in queste vicende delle Expo? Cioè, ma guardi, io l'ho già detto. Mi sembrano un gruppo di millantatori, se poi fra questi millantatori, diciamo avanti negli anni, che un po' pasticcioni, e poi certo fra millantatori e pasticcioni ci può essere qualcuno. Cioè lui è un millantatore secondo te? No, ho fatto un gruppo di persone. Ho capito, però un gruppo di persone, chi? Lui scusa, perché... Cruciani, quando uno sta in carcere bisogna avere rispetto. No, ma nessuno dice niente, però Greganti, come lo consideri? Uno che faceva da intermediario, uno che cercava di prendere dei soldi, di rimediare delle mazzette per conto delle... No, ma cercava di lavorare, secondo me. Cercava di lavorare e basta. Certo. Dunque, secondo te non ha commesso reati? Così, per quello che pensi tu, per quello che pensi tu. Non ti so dire né di lui né degli altri. Ti sembra più un'attività di lobby quello che faceva, più di lobby che di altro? Ma sì, cercava di sbarcare il lunario, ho visto che uno che lo conosce bene, un presidente di cooperative, che dice ma guardate che c'aveva problemi, vedete, mettere insieme il pranzo con la cena, questo m'ha colpito, perché se uno non sta, magari combina qualche pasticcio o fa qualche telefono. Però alla fine tu hai l'impressione che ne uscirà un po', alla fine la farà franca. Sì, dalle cose che sono venute fuori non mi pare che lui sia... Ma scusami... Non ti pare che ci siano reati, dici? Ma io leggo, sono costretto a leggere. Certo, per forza, però non ti pare che ci siano grandi reati? Ma non mi pare, ma aspettiamo. Sì, io certo. Mi auguro che venga fuori. Ma hanno fatto bene a... Hanno fatto bene a sospenderlo dal partito? Ecco, si era iscritto al PD, hanno fatto bene a sospenderlo dal partito? Ma oppure? Queste cose sono misure normali, cioè, giusto? Doverose. No? Però qualcuno dice, per me, qua secondo me è un errore da parte di qualcuno che vuole fare il puro, non si doveva nemmeno iscrivere Emiliano, per esempio, l'ho sentito dire, non si doveva nemmeno iscrivere al Partito Democratico, doveva essere preso a calci dal Partito Democratico, ma perché non si poteva iscrivere? No, questa è una stupidaggine. È una stupidaggine, una cattiveria, è una cosa che una persona non dovrebbe mai dire, soprattutto uno che ha quel ruolo. Cioè si può tranquillamente scrivere a PD uno come Greganti, se uno ha pagato eccetera, no? Beh, uno ha fatto, ha commesso un errore, ha pagato quello che doveva pagare con la giustizia, dopo è un uomo che può circolare tranquillamente. E che male c'è se si iscrive al Partito Democratico, dici tu? Non mi pare che... Cioè non è in contraddizione Greganti col Partito Democratico, non c'è nessun tipo di contraddizione? No, in generale dico che non c'è contraddizione con uno che ha pagato con la giustizia. Ho capito. Fatto, insomma, in fondo... siamo il paese di Cesare Beccaria, noi siamo il paese di quelli che tagliano la testa. Ma un po' ha salvato all'epoca il Partito Comunista Greganti, no? Parenzo, che dici tu? Beh sì, ha avuto il famoso compagno Gisso, ma lo dicono i magistrati, e non ha parlato, non ha detto nulla, ed è l'unico che ha fatto la galera, questo sicuro. Poi l'altro filone, quello di Nordio, non ha portato a nulla, ti ricordi Carlo Nordio? Ecco, ma bisogna essere in qualche modo riconoscenti, la sinistra deve essere in qualche modo riconoscente a Greganti per non aver messo in mezzo i leader. Ma no, lasciamolo in pace Greganti, è una persona che ha commesso degli errori, e cercava di sbarcare, e adesso cercava di sbarcare il lunario. Ma mi pare proprio così. Per conto suo. Sì, non c'entra niente. Ma chi vedeva al Senato, secondo te? Ah, questo bisogna chiederlo a lui. Tra l'altro tu manco stai più al Senato. Vabbè, no, sto al Senato adesso. Ah, stai al Senato? Fai un po' di confusione. E non so, mi dicono Senato, poi ogni tanto deputato. Hai cambiato? No, sto al Senato adesso, da un anno. Sì, è vero, da un anno sei passato al Senato, ma che ne so. Però non lo incontravo, se l'avessi incontrato gli avrei detto queste cose. Ma scusami, adesso che ha vinto il compagno Renzi, tutto il patrimonio... Compagno, dai, compagno. Si può chiamare compagno Renzi, Ugo? No, difficile. No, lui ho sentito a Piazza del Popolo che ha detto... compagni, amici, va benissimo. Ti sei emozionato? Però, ti sei emozionato? No, perché eravamo in tanti di compagni, l'ho visti tanti, tanti, quindi va benissimo. Certo. Se ci chiama compagni, non vedo una un'altra parola domanda. Ma adesso il patrimonio del partito glielo ancora con questo patrimonio. No. Patrimonio, ma basta, che ci frega del patrimonio del partito, basta parlare il grande patrimonio, basta parlare del patrimonio del partito, non me ne frega niente. Io Parenzo, lascia perdere, quello non si tocca, quello giù non si tocca, giù le mani dal patrimonio del partito. Però io voglio chiedere un'ultima cosa a Sposetti prima di lasciarlo, e gliela devo chiedere per forza, perché ho visto che l'hanno rincorso i giornalisti dalla gabbia per chiedergli sta cosa delle sigarette elettroniche. Ma davvero tu sei, come dire, hai ricevuto un finanziamento dai signori, non mi ricordo che, di che cosa, ma sei a favore, sei sfavorevole la sigaretta elettronica? Allora io non ho mai fumato in vita mia, mai, non so che cosa significa fumare una sigaretta, un sigaro o una cosa. Durante la campagna elettorale, come altri che mi vogliono bene mi hanno sostenuto, veramente la Federazione Italiana Tabaccai, sì, pensavo che mi sostenessero un po' più, un po' più invece di soldi. Sono stati birichini, 37.000 euro danno e invece potevano sostenermi un po' di più, insomma, perché hanno la possibilità. E dunque? Sono stati birichini, mi devono dare di più. Ma perché sei contrario alla sigaretta elettronica allora? Ma non sono contrario alla sigaretta elettronica, non mai. Che significa sigaretta elettronica? Qualcuno dice che sei contrario, anzi sei promotore di leggi per sfavorire la sigaretta elettronica. Io promotore di leggi? Sì, o comunque cofirmatario di leggi dove... No, viva la questione che c'è. Viva la sigaretta elettronica. Che deve risolvere il governo italiano e il Ministero della Sanità, che allora viva una cosa. Allora Cruciani, tu in bocca una cosa che non sai che va bene, antifamante, ce la metti, no? No, Cruciani, non ce la metto, ma pure la sigaretta non è che fa bene. Pure la sigaretta Cruciani, non è che fa bene. Cruciani, rispondi a me. No, non me la voglio mettere una cosa che non si sa se fa bene o male, su questo non c'è dubbio. Dunque, non ti mettere niente in bocca, mi raccomando. Dunque, niente sigaretta elettronica. Ma no, non ho mai fumato, non vedo perché ci devo mettere la sigaretta elettronica. Ho capito, però dimmi la verità, sei a favore o contrario alla sigaretta elettronica? Dimmi. È una cosa che mi trova indifferente. Guarda. Ma no, non sei indifferente a questa roba qua, dai, non è vero. No, è totalmente indifferente, come sono totalmente indifferente alle sigarette. Totalmente indifferente, però tu dici non bisogna mettere in bocca, bisogna chiarire se fa male o fa bene, questa Sì, tu ce la metti in bocca una cosa che ti fa no, male. Però le tasse, tu in quel disegno di legge si aumentano le tasse, una tassazione. Ma io non ho fatto nessuna, non sono io ho solo fatto proposte che riguardano i partiti. Vabbè, i partiti. No, le tasse partiti. Lo so bene, sulle tasse lo so bene. Comunque, vabbè, Ugo, non vuoi rispondere a questo perché è una cosa delicata, diciamo la verità. Senti, no, attimo, tu è delicata, che è talmente trasparente. Ma lo vedi bene D'Alema in Europa? Cioè Renzi dovrebbe, dovrebbe nominare D'Alema come commissario europeo, lo vedresti bene o no? Assolutamente sì. Cioè Renzi dovrebbe fare questa mossa? No, mossa mi pare che c'ha tutte le competenze, tutti i numeri, come si dice, no? Per cui consigli a Renzi di nominare commissario europeo D'Alema? Ma no, io Presidente del Consiglio non so, non do nessun consiglio. Ma tra lui e Letta chi è meglio in Europa? Beh, vabbè. Beh, questo ci sta, possono star bene tutte e due. Che beh, no, tutte e due non si può, uno bisogna scegliere. Vabbè, lo sceglierà il Presidente del Consiglio. E dai, se spingiti un po' più avanti, che te frega, ormai tanto sarà l'ultima legislatura che fai, Ugo. Su. Questo lo vedremo. Sì, ma l'hai fumato mai uno spinello in vita tua? Hai mai fumato uno spinello? Hai mai fumato uno spinello? Non ho mai fumato uno spinello. Guarda che c'è un sacco di gente che fuma gli spinelli e non ha mai fumato uno spinello. Ma lascia perdere, guarda, è proprio una cosa che non mi... E divorzio breve? Sì, tutta la vita. Ma no, anche questo mi rende indifferente. Ma come indifferente divorzio breve? Bisogna... No, a me, tu devi dici a me mi rende indifferente, cosa. Però vabbè, penso che quelli che non vanno più d'accordo hanno diritto a chiudere il loro rapporto in tempi stretti, bravo. Allora, ultima domanda. Io ho ascoltato dei ragionamenti molto interessanti che parlano, dice, ma se uno ha intenzione di divorziare non deve passare attraverso la separazione, arriva subito al divorzio, no? Perché c'è separazione, divorzio, certo, doppie spese, doppie cose, risolvano i problemi. Quando le cose vanno si chiudono. Pare, che gli vuoi chiedere? Ultima cosa. No, volevo dire, definitivamente possiamo mettere la parola fine all'epoca Grillo, ora, caro sposetto. Dunque, attenti. Le elezioni ci sono state, ma i problemi rimangono tutti. Vabbè. E quindi chissà. Problemi del lavoro, rimangono problemi dell'apertura dei cantieri, la scuola, la sanità, i giovani, quindi i problemi rimangono tutti. Adesso il risultato non ci deve distogliere, perché non è che il risultato si risolva. Dobbiamo lavorare, il Parlamento deve lavorare, fare le riforme, dimostrare all'Europa che siamo un paese serio, che non ha bisogno di tutele. A presto, ciao. Ciao ciao. Ciao carissimi. Ciao. E dopo Ugo Sposetti, deputato, anzi senatore del Partito Democratico, che ci ha detto la sua su Greganti, eccetera, eccetera, su Renzi, su Grillo, un sacco di roba, Claudio da Milano, valanga di ascoltatori, adesso voglio una valanga di ascoltatori, valanga. E poi fermi tutti, ci sono quelli incazzati, quelli dell'esercito di Parenzo, e poi c'è gente incazzata, adesso andiamo alla battaglia, vi leggerò tutti i tweet del professore Carlo Taormina contro di noi, e poi... No, io ho ricevuto, però non abbiamo avuto una notizia importante, ho ricevuto un attacco hacker. Ma chi se ne frega dell'attacco hacker che ha ricevuto? La mia mail è stata... Ma ce ne sbattiamo, No, ce ne sbattiamo niente, perché come disse Clinton, noi vi troveremo, noi vi prenderemo, noi vi uccideremo. Sì. Ecco, ma voglio dire una cosa invece che c'è un po' sfuggita, lo sciopero della RAI contro Renzi, contro i tagli di Renzi. Beh amici miei, mi fate diventare renziano di ferro, mi fate diventare... Ha chiesto un sacrificio alla RAI, capito? Ha chiesto un sacrificio al carrozzone RAI, 150 milioni di euro. Di sacrifici, non tagli, non licenziamenti, sacrifici per gli sprechi che ci sono, e beh, che cosa fanno alla RAI? Lo sciopero, perché il governo ha chiesto un sacrificio, come ne chiede tanti agli altri, capito? No? Lo sciopero della RAI, cazzo, lo sciopero. Una cosa pazzesca, divento renziano di ferro. Questa zanzara folle apre le mie finestre. Claudio Milano, Claudio. Pronto? Vai. Ciao. Ascolta, io chiamo per rispondere all'ascoltatore di prima, Giulio da Roma. Innanzitutto non si deve permettere di dare del miserabile a 50.000 lavoratori senza sapere neanche di cosa sta parlando, perché le nostre situazioni tanta gente non le conosce, non le conoscete neanche voi perché siete poco informati, perché ci fate parlare poco. Se vuoi ti dico cosa noi, penso. Noi facciamo parlare poco, noi no, qui alla Zanzara no, facciamo no, parlare no, poco. Non voi tu Cruciani e Parenzo, non Cruciani e Parenzo, voi giornalisti nelle trasmissioni approfondite un po' poco quando parliamo. Ma noi. Non è vero, in questi giorni ho visto dei confronti per la signora di Uber, sì, che poi ne parliamo di questa vicenda, bene, della signora di Uber e i tassisti in tutte le televisioni, radio, eccetera, eccetera. La signora si è confrontata con i tassisti. Questo è un paese, questo è un paese che chiunque sciopera, però quando scioperiamo noi siamo una corporazione. Vabbè, ho capito, però non faccia bene, non faccia allora, ascolta. Adesso se vuoi ti dico cosa ne penso io di questo sciopero. Secondo me abbiamo sbagliato in un certo senso, perché noi comunque dovevamo garantire il servizio, cioè una volta fatta sapere al ministro il problema, dopo noi dovevamo riprendere, per come la vedo io. Di Uber io penso che se entra sul mercato come hanno fatto, perché guarda che Uber non inventa niente, le app per i taxi ce ne sono già 5. Sì, sì, sì. Quando sono uscite le altre app noi non ci siamo mai messi di traverso. Sì, perché era una cosa diversa. Qui perché, hanno fatto un'entrata massiccia, c'è Google, eccetera, eccetera. No, dunque è una cosa più seria. Perché sono app che, sono app che rispettano le regole. Le app ci sono già, noi sì, ne abbiamo quella tre. Di partire, noi... quella di partire dalle autorimesse, quella di partire dalle autorimesse. No. Cioè, secondo voi questi fanno i taxi app, in sostanza? App, questi app fanno i taxi. Fanno, io sto parlando di app che fanno lavorare anche noi. Ci sono due app private, una si chiama Cabeo e l'altra è quella dell'Unione Artigiani che non mi ricordo. Vabbè, allora sì, però non valgono un cazzo, dai, queste qua, su. Sì. Non valgono dal punto di vista del mercato, non vi tolgono fette di mercato. Ma perché... No, perché fanno lavorare noi, non fanno lavorare l'ortolano e il salumiere, che quando vanno a casa possono caricare la gente e portarla a casa e fare il nostro lavoro. Ma questa... Io quando metto la macchina in box non metto i limoni sul carretto e vado a vendere davanti all'ortolano, scusa. Scusami un attimo però, se uno vuole farsi un mazzo così e vuole fare doppi, tripli, quadrupli lavori, perché non li può fare? Cioè perché dovete essere così qualche volta limitati? Se uno vuole guadagnare di più... Perché lui ha una licenza per vendere la verdura, io ho una licenza per portare via la gente. E allora si va alle licenze, è d'accordo, vede che si arriva sempre lì, cioè il mondo va per licenza. Ma scusa, cosa ha detto Sposetti prima? Ognuno faccia il suo lavoro. Sì, no, per carità, ma io non dico e poi, di no. E Toscani prima ha detto una cosa saggia. Vabbè, Toscani non mi piace molto quando parla, ma ha detto una cosa giusta. Ha detto la gente che critica le categorie, come prima ha parlato dei gay, sono quelli che quella cosa lì non sa neanche che cos'è. La gente che critica noi non sono nostri clienti, perché i nostri clienti lo sanno cosa devono fare. Chiedi a Parenzo quando chiamate il taxi lì fuori da Piazzale Lotto quanto ci mette a arrivare. Sì, va, perché c'è la stazione qua dietro. Bravo, è in Piazzale Lotto, arrivare a rimontare la 90 ci vuole un minuto. Ma infatti spesso la questione è semplice. E tu che giri Milano, dimmi le code che vedi sui posteggi, dimmi se c'è bisogno di taxi a Milano. È pieno di code, dipende dai momenti della giornata, bravo, ovviamente, bravo. Dipende dai momenti poi, della giornata. Poi però sei d'accordo con me lavora, che più... Abita a Roma, sei d'accordo Roma, con me a Roma. Sei d'accordo con me che più cose ci stanno per evitare di prendere la macchina e più voi alla fine guadagnate? Sei d'accordo o no? Ma se rispettano le regole, sì. Sì, ma quali sono le regole che non rispettano? Quali sono le regole che non rispettano? Spiegami. Quali allora, sono? Quello di non partire che non partono dalla rimessa, ma sono praticamente liberi di circolare. Partono... No, ma non qual Uber è la regola? Black. Io sto parlando di Uber Pop. Uber, ma Uber Pop già è passata come cosa, perché non si farà Uber Pop. Ok. Ma guarda che noi ci siamo fermati più per Uber Pop che per Uber Black. Sì, d'accordo, però... Uber Black, noi abbiamo chiesto alla, voi volete alla... chiudere anche Uber normale, no. Dai. Noi non vogliamo far chiudere Uber Black. Se volete che partono agli NCC. Sì, volete la dà alla rimessa NCC più vicino all'indirizzo. Qual ho è il capito, problema? Ragazzi, però se questi no, qua si trovano in mezzo alla strada. Questi fanno gli appostamenti, questi vengono in stazione centrale a fare gli appostamenti. Vabbè, ma quello è un altro discorso, gli appostamenti. Se quello stanno in mezzo alla strada, non è che possono tornare alla rimessa. Stanno in mezzo alla strada, prendono un'altra chiamata attraverso l'applicazione e vanno lì, non è che possono tornare alla rimessa. Abbi pazienza o no? Ma è sempre lavorato così, eh? Ho capito, ma ha sempre lavorato così. Sì, lavorano così. Ma il mondo va avanti però, il mondo va avanti. Allora, ascolta. Se io ho un bar e il baracchino che vende i panini davanti a San Siro, che ha il suo posto, la sua ora, viene a vendere i panini davanti al mio bar, io chiamo la polizia a tempo un minuto esce e gli fa un culo così, sì, no, perché ma... non può farlo. Ma il problema perché è... lui fa lo stesso lavoro, regole. Ho capito, ma non vogliamo che le regole restino sempre le stesse, immobili, per anni. Ma chi l'ha detto? Capito? Se le regole... Sei visto la Fornera cambiare le regole? Aspetta una sola, Claudio, no, Parenzo, scusa, che prima di cambiare le regole bisogna anche pensare dove vai, Parenzo, dove vai, dove metti le mani. Scusami, la questione è molto più semplice, purtroppo. Allora, i tassisti hanno tutte le ragioni perché hanno fatto un investimento e hanno la licenza e il loro TFR, cioè quei 150.000 euro. Poi? Qualcuno... questa è la questione di sì, certo, questione. L'abbiamo detto prima. Secondo, sì. Va ripetuta, nel mercato ci dovrebbe essere spazio per tutti, cioè questi che hanno l'NCC, che hanno macchine bellissime, più comode, più confortevoli, dovrebbero fare un tipo di servizio che è cosiddetto business, cioè che costa di più. Il taxi ma infatti dovrebbe... costa di più, 20% di no, più ti segnalo. Non sempre, non sempre. Ma come non no? Sempre, sì, che sì. Ad esempio per andare, non è vero, perché te lo dico per esperienza personale, per andare ad esempio da Roma centro a Roma Fiumicino, la tariffa spesso è di 40 euro, cioè quasi lo stesso del taxi, quindi non è vero che sempre spesso costa di più, non è vero, non è così, e lo sanno tutti che non è così. Il problema è che i comuni dovrebbero rivedere completamente le tariffe dei tassisti, ad esempio. Eh no, questa è la hai ragione anche tu quando dici che si può bloccare si può bloccare la tecnologia, l'evoluzione delle cose, ma sì, queste persone vanno indennizzate, però, perché queste persone qui hanno fatto loro un investimento importante. Fermi tutti, caro Tormina, io sono amante della satira, del gioco, dell'ironia, dell'arguzia, ma non delle porcate squallide di giornalisti venduti all'audience becera. Filippo da Vicenza, buonasera. Eccomi qua, salve. Vai, Cruciani. Vai. Beh, grande soddisfazione, Cruciani. Ieri sera è tornato il maestro. Manderò a puttane, Riccardo, manderò a puttane la gruppo. Ma chi è questa? Ah, Filippo da Vicenza, è l'amministratore sì, della pagina. Allora, ho cominciato io, Parenzo? Parenzo? Sono stato io a fondare Riccardo da Roma. È il capo Club. Dell'esercito di Riccardo. No, io ho fondato il gruppo Riccardo da Roma Fans Club su Facebook, vabbè, non su Twitter. Se ne occupa un altro. Vabbè, non specifichiamo e adesso. Più di un anno fa e adesso siamo in 1300. Ieri ci ha fatto godere anche ieri. Senti, io di fondatore francamente conosco solo Scalfari che ha fondato la Repubblica. Oh, per carità, mi tocco le palle appena sento quel nome. Non parlare più, per favore. Parenzo, dai, che facevi tanto fondato, supponente facevi quando eravamo in 50-60, che ho chiamato che eravamo in 50-60. Adesso appena cloaca. Senti il nome di Riccardo ti caghi addosso, cominci a sbraitare, guarda, fai la checca isterica, guarda, perché quando parla Riccardo tu sparisci. Quando parla Riccardo, ma ascolta, hai creato dei mostri, Cruciani, hai creato un esercito dei personaggi. Vabbè, che vuoi dire? Filippo, che vuoi dire? Allora, intanto, no, infatti mi dispiace che adesso non abbia potuto tornare e finire l'intervento di ieri. Vabbè, ho capito, ragazzi. Perché... è stupito, sì. È dispiaciuto insieme ai fan di Riccardo da Roma che Riccardo non abbia potuto finire l'intervento. Va bene, lasciami parlare un'ultima cosa, Cruciani. Poi vi lascio, un'ultima cosa. Volevo fare un piccolo appello appunto a Riccardo anche da parte nostra del gruppo. Siamo tantissimi. Ti vogliamo bene, Riccardo, vieni, fatti sentire anche con noi che sei il numero uno. Ok. Alla faccia di Parenzo. Ma questa è gente più. Andrea da Bologna, buonasera Andrea. Buonasera, allora io volevo intervenire esattamente sullo stesso tema, cioè mi ricollego al tema di Borghezio, di che cosa? Esatto, dei fucili puntati, cioè, sugli Parenzo, scafisti. È finito il momento della diplomazia, Parenzo, perché siamo circondati. Adesso è rotto il cazzo a fare, capito, il tranquillone, perché qua lei è iscritto al club fan di Riccardo? No, io sono iscritto, però dico a Parenzo che se Riccardo ti è sembrato agitato, cioè meglio che scappi, perché io so il triplo, cioè siamo circondati, Parenzo, cazzo, è finita, io abito a Bologna, siamo circondati dagli immigrati dell'extra comunitari, siamo circondati, hai capito? Cioè non è più possibile, io sono andato in comune a votare tutti i referendum di Salvini, tutti, io la Fornero la voglio vedere al semaforo che mi lava i fari, hai capito? Altro che gli esodati, la Fornero. Non esagerare, Andrea. No, te lo giuro. La Fornero all'angolo della strada a pulire i... Ma scusami Cruciani, tu l'hai difesa giustamente la Fornero. Sì, l'hai per l'aumento dell'età pensionabile, sì, assolutamente sì, va tutta la vita. Questo, ma io l'ho detto, infatti non ho firmato quei referendum. La Fornero ha commesso degli errori, sicuramente come li commesso. Mettono tutti, ma l'aumento dell'età pensionabile è sacrosanta, non mi lascio incantare, capito? Poi certo, uno che la vuole vedere all'angolo della strada, caro Andrea, o no? In un paese civile e democratico non può esistere l'esodato, non può esistere, cazzo, cioè uno che lavora tutta la vita non prende la pensione, allora, non esiste. Grazie, Bianconi, no, deputato no. PDL o Forza Italia adesso, il genio di Renzi topa con contorno di Congolini, Boschi, cioè subito topa con contorno di Marò, riferito alla Boschi. Rosa, se va bene rosa. Fate schifo, sì, lasciatevelo dire. Rosa brucia proprio addosso a me. Abbiamo un grande collegamento, grande ritorno, Parenzo, non te l'ho detto prima, volevo farti la sorpresa. Grande ritorno, grande ritorno alla Zanzara. Beh, no, una persona che ti piace. Grande ritorno alla Zanzara. Siamo qui, incredibile. È con noi il governatore della Puglia, Nichi Vendola. Buonasera. Buonasera, ben ritrovata alla Zanzara. Abbiamo superato momenti complicati tra di noi, abbiamo superato telefonate, eccetera, eccetera. Stavolta non è uno scherzo. Come sta? Mi auguro che questo mio intervento sancisca alla fine di questa vostra mitologia un po' medievale, violenta, antica, tribale. Cioè, in che senso, scusi? Non ho capito. Beh, acqua passata comunque, governatore. Adesso non torniamo su queste robe qui. Ma ci dica piuttosto cosa pensa dell'abolizione della Fini-Giovanardi o comunque dei cambiamenti in corso? Sì, in questo nostro paese stremato, spaventato, precarizzato, il proibizionismo rappresenterebbe una sorta di gattopardismo che ritorna in forma da moderno succo arabo. Che c'entra il succo gattopardismo? Comunque, vabbè, stringa, governatore. Io penso che si trattasse di un obbrobrio da politicanti, immaginabile, insostenibile, addirittura nichilista, una legge sbagliata e feroce. Hai capito, Parenzo, tu? Ma non tantissimo, veramente. Comunque, però, ma come la mettiamo? Non mi stupisco che Parenzo non capisca. Come la mettiamo con questi 3.000 spacciatori oltre di droghe leggere che potrebbero tornare liberi dopo la sentenza della Cassazione, Vendola? Si tende sempre a vedere esclusivamente l'icona luciferina dello spacciatore. Ma come l'icona? Ma in un paese, che gronda antisemitismo, dove tra i diritti fondativi del genere umano non c'è più il diritto di varcare le colonne di Ercole. Mi scusi l'ossimoro, ascoltiamo le urla silenziose. Ma che vuol dire le urla silenziose? È bello le urla silenziose. Ma di cosa? È una bella immagine. Il nostro popolo ha bisogno di una terra deprecarizzata e vegetariana. Deprecarizzata e vegetariana, cioè che vuol dire? Erba, tanta erba, libera e legalizzata. Datemi quella farfalla. Quante farfalle. Grazie, buonasera, Vendola. Grazie. Comunque non è cambiato, Vendola. Ma non ho capito le farfalle. Ma non ho capito manco io. Ma è con noi stavolta un grandissimo ospite, perché quello di prima, insomma, era un po' in difficoltà. Beh, abbiamo con noi Ferdinando Imposimato. Buonasera. Buonasera. Come sta? Abbastanza bene, grazie. Ci bacchetti un po' Imposimato per lo scherzetto che abbiamo combinato al signor Dario Fo con il finto casaleggio. Ci bacchetti un po', che noi amiamo essere un po' bacchettati ogni tanto, abbiamo bisogno. No, vabbè, ma che significa? È stato uno scherzo che ha gradito Dario Fo. Non mi sembra che abbia reagito in qualche modo, perché voi vi siete immedesimati nella parte di Casaleggio e quindi lui l'ha gradita questa prova. Ah, ma lei ha saputo questa cosa qua, che ha gradito? No, questo mi è sembrato anche dalle sue dichiarazioni fatte il giorno dopo sui giornali. Che non ha sgradito la cosa, d'altra parte, non sai? Non mi sembra che vi abbia preso a mala parola. No, ma d'altra parte, Imposimato, sai una cosa, è un satiro lui, no? È un comico, è il re dello sberleffo. Sarebbe il colmo, se si infuriasse per una cosa. No, ma è giusto che abbia fatto così. Anche se, devo dire la verità, Casaleggio era uguale, Era identico Casaleggio, bravissimo l'imitatore. Infatti è stata un'imitazione perfetta, come al solito. Comunque, guardi, non abbia paura, noi e lei non... No, va bene, non ho paura, figuriamoci. No, ma figuriamo, uno che si occupa di... Vi stimo e vi consiglio. Uno che si occupa di stragi, di cose come lei, figuriamoci se c'ha paura di due cialtroni come noi. Senti, Imposimato, io le voglio chiedere una cosa. Lei so che è molto, molto critico, essendo uno di quelli che è salito sul palco dei 5 Stelle. Insomma, è un elettore... anche se indipendente, naturalmente, con le sue idee di Grillo, però questa storia dell'incontro col signor Farage proprio non le è andata giù, Imposimato. È una mezza porcheria, dai. Guardi, le dico questo, secondo me dipende molto dalla disinformazione, perché questo Farage è un personaggio che a me non era assolutamente noto, poi mi sono dovuto documentare. Cioè non lo conosceva lei? Nel senso che, no, non l'avevo mai sentito parlare. Mai? A leggere cose che riguardano questo signor Farage. Poi ho letto e mi sono messo le mani nei capelli. Appunto. Perché questa persona è la quintessenza del razzismo, anche del liberismo selvaggio, del nazionalismo, sì, e quindi dell'anti-europeismo. Tutto questo va contro dei principi che sono stati affermati anche nella Costituzione, perché l'articolo 11 già parla dell'apertura verso organizzazioni internazionali, ma poi lo dicevano Moro. Vabbè, per cui è tutto il contrario dei 5 Stelle, dice lei. Non solo, ma anche nel programma, perché il programma delle 5 Stelle si basa sull'eguaglianza e sulla solidarietà. E invece questi qua tutto il contrario. Questo qui è tutto il contrario, perché lui dice l'eguaglianza non c'è, sì, la solidarietà non ci interessa affatto, sì, e quindi secondo me è proprio un programma che va in... Dunque è una follia accordarsi con Farage. Ma per l'amor di Dio, secondo me, però no, beh, certo. Io ho letto con attenzione il programma del Movimento 5 Stelle, che in grandissima parte condivido, ripeto, si basa sull'eguaglianza, sì, certo, e sulla solidarietà, che poi hanno dimostrato concretamente pure rinunziando ai finanziamenti pubblici, sì. E quindi bisogna documentarsi bene su questo. No, però ho capito. Allora, che gli è preso? Giulia Sarti, l'onorevole Giulia Sarti, ha fatto un'analisi perfetta di questa. Però ho capito, ma Grillo oggi ha confermato che ci sono dei punti in comune, che Farage non è razzista, è spiritoso. È impazzito Grillo, secondo lei? È un po', come dire. Secondo me lui non si è documentato bene. Io stimo molto Grillo perché ha creato in Italia l'opposizione che prima non c'era, sì, perché noi abbiamo sempre avuto governi consociativi, sì, e quando in un paese c'è soltanto una parte, cioè sì, sì, un regime, praticamente la democrazia non esiste, cioè la dittatura della maggioranza, punto e basta. Lui ha creato questa opposizione che secondo me ha fatto anche bene, perché ha costretto la maggioranza a fare delle cose che non l'avrebbero mai fatta. Vabbè, però in questo caso non ha letto nulla, cioè non si è documentato, secondo non sa. Secondo me su questo si deve un po' documentare, ma non c'è niente di strano, perché uno che non conosce, non è che Farage che è Churchill. Vabbè, ho capito, non sarà Churchill. È una mezza calzetta, insomma. Ho capito, però è il primo partito in Inghilterra, e Grillo oggi ha confermato che ci sono punti in comune, ma secondo lei Grillo... Ma sarà infatti io non riesco a sopportare proprio l'Inghilterra, perché l'Inghilterra sta lì nell'Unione Europea per sabotare l'Unione Europea. Beh, in parte sì. Tant'è vero che si è sempre opposta a qualunque iniziativa. Loro pongono il veto e c'è questa strana legge che prevede che con il veto si possa... Non vince il criterio della maggioranza, come lei sa, in Unione Europea. Ma scusi, Imposimato. No, ma mi perdoni, adesso però andiamo al punto. Sì. Schiaffeggi metaforicamente Beppe Grillo, gli tiri due ciaffoni metaforici e lo metta in guardia, perché potrebbe perdere definitivamente il suo elettorato, a quanto lei dice. Si fermi da questa cosa con Farage. Io lo dica. Ma lui non ha preso nessuna decisione. Vabbè, ho capito, però oggi ha detto... Lui ha preso contatti con questo e secondo me lui non può non consultare la... Ha sbagliato, la base, diciamo la verità, ha sbagliato a farsi fotografare insieme a questo qua. Lo dica. Guardi, io credo che lui abbia omesso di documentarsi bene sul conto. Ma è grave però per un leader politico, no? Forse, ecco, avrebbe dovuto... approfondire un po' meglio il personaggio, cosa che peraltro, vi dico la verità, io ho fatto soltanto in questi ultimi due giorni. Non sapeva manco che esisteva sto Farage. Le notizie non è che stanno... Allora, le dico subito una cosa, questo tizio qua parla di aumentare del 40% le spese militari, fare diventare l'Inghilterra una potenza nucleare, stracciare gli accordi europei per contrastare il surriscaldamento del pianeta, investire massicciamente su carbone nucleare... No, ma questo è proprio un pazzo scatenato, qui se facciamo l'elenco delle negatività di questo qui, siamo fino a domani mattina. E appunto... Sembrano quasi incredibili, però anche lei, secondo me, queste cose non le sapeva. Fino all'altro no, le sapevo, le assicuro, perché noi abbiamo incontrato Farage più volte al Parlamento Europeo. Comunque lasciamo perdere chi sapeva e chi non sapeva. La cosa fondamentale, Imposimato, che lei da grande elettore, diciamo così, uno di quelli che è salito sul palco dei 5 Stelle, dice a Grillo: guarda, fermati, perché questo qua è Nupaz, come si dice in napoletano, Nupaz scatenata, o no? Secondo me lui, quando saprà bene qual è il programma, si fermerà sicuramente, perché poi il Movimento 5 Stelle è un movimento, secondo me, democratico, quindi già ha manifestato attraverso alcuni suoi rappresentanti il suo ribrezzo, Giulia Sarti e come altri le proprie... Ho capito, però è Giulia Sarti, mentre dall'altra parte c'è Grillo. Giulia Sarti dice una cosa e Grillo difende Farage. Non credo che Grillo sia così ostinato da pensare a scegliere un personaggio che squalificherebbe tutto il movimento. Cioè, se Farage, se Grillo facesse un personaggio pericoloso, questo è pericoloso, questo è da tenere lontano, non solo per le ragioni che ha detto lei, ma anche per altre ragioni. Razzista? Pensi che l'Inghilterra, lui, e l'Inghilterra ha coinvolto, perché mi pare che lui sia anche un sostenitore di Berlusconi, mi pare che lui. Beh, sì, non è molto lontano da Berlusconi, sì. Allora, Berlusconi è quello che ci ha trascinato nella guerra all'Iraq, perché sì, se non le balle dette dall'Inghilterra, dai servizi inglesi, non avessero contagiato anche Berlusconi, noi non ci saremmo non saremmo stati coinvolti con un disperdere. Per cui mi dica la verità, Imposimato, se dovesse esserci un'alleanza tra Farage e Grillo, lei abbandonerebbe i 5 Stelle, cioè abbandonerebbe totalmente. Ma io veramente, non, come lei sa, non ne faccio parte, io sono un esterno. Uno... No, d'accordo, però non salirebbe più sul palco, non parlerebbe più con Grillo, diciamola tutta. Ma credo che questa sia un'ipotesi di terzo vino. Mettiamo questa che cosa, ci sia questa alleanza. Questa cosa non avverrà, secondo me, perché se dovesse avvenire? Io stimo troppo Grillo, e se dovesse avvenire vuol dire che prenderò le mani, non credo, ripeto, per me non esiste questa possibilità. Però se dovessero allearsi, lei abbandona, diciamo, il movimento, anche se non è... Il movimento non è una cosa che... di cui io faccio parte. No, io, d'accordo, però no. Molto i ragazzi del Movimento 5 Stelle che non abbandonerò mai, perché mi pare che loro hanno assunto una posizione molto equilibrata e molto saggia. Però, Imposimato, quindi non è che esiste così una cosa, una alternativa così drammatica e drastica come la pone lei. Cioè, si sta da una parte. No, ma ho capito, però io le faccio una domanda molto chiara. Siccome lei è salito sul palco, i rapporti tra lei e Grillo cambierebbero? Cioè, non avrebbe più rapporti con Grillo dal punto di vista politico se dovesse allearsi con Farage? Ma secondo me non esiste questa possibilità. Non esiste questa possibilità. Io non ci vuole nemmeno pensare. Non ci vuole nemmeno pensare. Voglio nemmeno crederci, perché non esiste. Perché oggi ha detto che hanno punti in comune. È una persona saggia e non potrà mai. Oggi ha detto che ci sono punti in comune. Io le voglio segnalare questo. Comunque, vabbè. Senta, Imposimato, ma secondo lei Grillo, dopo questa sconfitta che c'è stata, adesso non è che c'è disinformazione, sconfitta elettorale c'è stata, dovrebbe dimettersi, cioè dovrebbe lasciare? No, secondo me no, perché non è una sconfitta. È passato da zero a 17 per rappresentanti. Per me bisogna fare il raffronto con il passato. Non c'era prima, certo, non c'era prima. 21,5%, quasi il 22%. Non è una sconfitta. Non è una cosa di poco conto. Non è una cosa. Senta, passiamo ad un'altra cosa. È un consenso straordinario, quindi l'unica opposizione, guai se dovesse sparire l'opposizione del Movimento 5 Stelle, perché è l'unica opposizione che c'è sta. Non c'è stato un po' di arroganza? Mi vuole mettere contro Grillo? Non, ma no, non... ma io le faccio anche delle domande. Anche perché le cose si fanno sulla base di fatti già avvenuti. E quindi io il Movimento l'ho sempre stimato e continuo a stimarlo per tutto quello che ha fatto. E potrei elencarle, insomma, in tema di eguaglianza dei diritti sociali. Di Parenzo, che vuoi chiedere al professore? Perché loro hanno costretto anche il movimento e la maggioranza a fare dei provvedimenti che non avrebbero mai adottato, come per esempio la modifica della Parenzo, che vuoi chiedere? No, io voglio chiedere in chiusura, siccome Imposimato... Un attimo solo. No. Siccome Imposimato è grande esperto di trame italiane, lui magari forse è d'accordo a fare questa commissione d'inchiesta sul golpe che avrebbe messo da parte Berlusconi. Ecco, sì, questo, Imposimato. Questa è una cavolata, questa è una perdita di tempo che fa ridere. Non c'è stato il golpe, no? Un golpe che non esiste proprio, ma chi è il Berlusconi? Ma è un golpe contro un personaggio squalificato, insomma, cioè uno che se ne doveva andare per conto suo. Ma che Senta, ma il Bilderberg invece? Questa indagine. Questa fesseria inventata da uno pseudo scrittore che dice che lui ha scoperto un golpe. No, veramente non è un golpe, è Geithner. Da lei fa ridere. Il colpo di Stato è una cosa che invece di impegnare il nostro paese, il nostro governo in cose serie, lo impegna in una ricerca, in un'indagine che non ha né capo né culo. Senta, un'ultima cosa, Imposimato, ma il Bilderberg è veramente colpevole di grandi trame, ha veramente delle grandi responsabilità sulle stragi italiane? Le dico questo, che se tanto questo a un documento importantissimo che io ho trovato allegato alla requisitoria di Emilio Alessandrini, che nessuno aveva letto, ed è un documento del 1967, Bilderberg è un gruppo fondamentale che è coinvolto nella strategia della tensione mondiale. E siccome il documento è fatto molto bene, ma vanno arrestati tutti questi qua? Intanto bisogna trovare chi è. Chi è? Vabbè. Bisogna leggersi bene questo documento. Facciamo una bella trasmissione prossimamente su Bilderberg. Comunque bisogna cercare di capire a fondo questo documento, perché questa cosa che risale assolutamente Imposimato, la devo lasciare su Bilderberg. Faremo una bellissima puntata Bilderberg, ragazzi. Purtroppo è finita, posso fare 2-5 secondi? No, non si può più fare niente. Vincenzo da Genova, Antonio da Napoli, Jonathan da Prato, Claudio da Roma, niente. Parenzo, ci sentiamo lunedì 18:30. ciao, come mi dispiace andare via, come mi dispiace. Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicova lì. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Saluti da Roma e quindi saluti romani. Radio 24. La passione si sente. InfoCert, il futuro digitale è adesso. Vi ha presentato La Zanzara.